Capitolo 4. Capricci e zie. Assolutamente no, disse il dottor Blythe in un tono che Jem comprese. Jem sapeva che non c'era alcuna speranza che papà cambiasse la sua opinione o che la mamma cercasse di fargliela cambiare. Era chiaro, si vedeva che su quel punto la mamma e il papà la pensavano allo stesso modo. Gli occhi nocciola di Jem si rabuiarono per la rabbia e la delusione mentre guardava quei crudeli, crudeli genitori, fissandoli con occhi feroci e sempre più feroci. Ma loro erano così esasperantemente indifferenti ai suoi feroci sguardi e continuavano a mangiare la loro cena, in una maniera proprio ingiusta e di cattivo gusto. Ovviamente zia Mary notava quegli sguardi, ma ai nulla sfuggiva. Ai dolenti occhi azzurri di zia Mary, ma sembrava solo che ne fosse divertita. Bertie Shakespeare Drew aveva giusto giocato con Jem tutto il pomeriggio. Walter era andato giù verso la vecchia casa dei sogni per giocare con Kenneth e Persis Ford, e Bertie Shakespeare aveva detto a Jem che tutti i ragazzi del Glen sarebbero andati verso Harbour Mouth quella sera a vedere il capitano Bill Taylor tatuare un serpente sul braccio di suo cugino Joe Drew. Lui, Bertie Shakespeare, ci andava. Eppure Jem non poteva andare con lui? Sarebbe stato un grande divertimento. Jem all'istante fu entusiasta di andarci, ed ora gli era stato detto che era assolutamente fuori questione. Uno tra i tanti motivi, disse papà, è troppo lontano per te andare verso Harbour Mouth con quei ragazzi. Non ritorneranno che a tarda ora e l'orario per andare a letto, ritengo, sia alle 8 per te, figliolo. Sono stata mandata a letto alle 7 ogni sera della mia vita quando ero bambina, disse zia Mary. Si deve aspettare di essere più grandi, Jem, prima di andare così lontano la sera, disse la mamma. Tu l'hai detto la settimana scorsa, esclamò Jem indignato, che io sono più vecchio adesso. Forse quando io ero un bambino. Bertie ci va, io appunto sono tanto vecchio quanto lui. C'è il morbillo in giro, disse zia Mary. Potresti prendere il morbillo, James? Jem odiava essere chiamato James e lei lo faceva sempre. Io voglio prendere il morbillo, mormorò da ribelle. Poi, incrociando lo sguardo di papà, invece si diede una calmata. Papà non avrebbe mai lasciato a nessuno dare una risposta impertinente a zia Mary. Jem odiava zia Mary. Zia Diana e zia Marilla erano state proprio delle adorabili zie, ma una come zia Mary era qualcosa di totalmente nuovo nell'esperienza di Jem. Va bene, disse con aria di sfida, rivolto alla mamma in modo che nessuno poteva supporre che stava parlando con zia Mary. Se tu non mi vuoi bene, non sei obbligata, ma ti piacerebbe se appena potrò andassi a caccia di tigri in Africa? Non ci sono tigri in Africa, caro, disse la mamma dolcemente. Leoni, allora! Gridò Jem. Erano determinati a metterlo dalla parte del torto, sì? Erano risoluti a ridere di lui, sì? Doveva fargliela vedere. Non si può dire che non ci sono leoni in Africa. Ci sono milioni di leoni in Africa. L'Africa è solo piena di leoni. Mamma e papà si limitarono semplicemente a sorridere, con grande disapprovazione della zia Mary. L'insofferenza nei bambini non doveva mai essere perdonata. Nel frattempo, Susan disse, divisa tra l'amore e la simpatia per Little Jem e la convinzione che il dottore e la dottora avessero perfettamente ragione nel rifiutare di lasciarlo andare via fino a Harbour Mouth con quella banda del paese, in un tale disdicevole posto quale la casa di quel vecchio ubriacone del capitano Bill Taylor. Ecco il tuo pan di zenzero e panna montata, Jem, caro. Pan di zenzero, e panna montata, Era il dessert preferito di Jem. Ma in quel momento non aveva fascino di calmare la sua anima tempestosa. Non voglio niente, disse imbronciato. Si alzò e si allontanò dal tavolo aprendo la porta per lanciare la sfida finale. Io non vado a letto fino alle 9 comunque. E quando sarò cresciuto mai andrò a letto. Rimarrò in piedi tutta la notte, ogni notte. Farò tatuaggi dappertutto. Io diventerò proprio cattivo. Tanto cattivo che di più non si potrà, vedrai. Si dice che di più non si potrebbe, caro, disse la mamma. Oh, niente poteva toccare i loro sentimenti. Suppongo che nessuno voglia la mia opinione, Annie, ma se avessi parlato con i miei genitori in questa maniera quando ero una bambina, sarei stata frustata fino ad essere quasi lì lì per morire, disse zia Mary. Oh, penso sia un peccato che la verga di Betulla sia così trascurata oggi in alcune case. No, il piccolo Jem non è da biasimare, sbuttò Susan, visto che il dottore e la signora dottora non volevano dire niente. Ma se la zia Mary Blythe aveva il diritto di dire il suo pensiero, lei, Susan, sapeva il motivo e doveva chiarire la questione. Bertie Shakespeare Drew ha concertato segretamente con lui, convincendolo di quanto sarebbe stato bello vedere Joe Drew tatuato. È stato qui tutto il pomeriggio. È entrato di nascosto in cucina, ha preso la migliore pentola di alluminio da utilizzare come un casco. Gli ha detto che stavano giocando ai soldati. Poi hanno fatto delle barche, con le scandole si sono bagnati fino alle ossa per farle navigare nel ruscello della conca. E dopo hanno saltellato nel cortile per un'ora di fila, facendo dei rumori bizzarri e facevano finta di essere rane. Rane! Non c'è da stupirsi se il piccolo Gem è sfinito e non è in sé. È il bambino più educato che io abbia mai visto nella mia vita, quando non è ridotto ad uno straccio. E non è che lo si possa legare. Zia Mary non disse nulla per non esasperare la questione. Non aveva mai parlato con Susan Baker all'ora dei pasti, esprimendo la sua disapprovazione su Susan di essere autorizzata a sedere con la famiglia. Anna e Susan avevano risolto la questione prima che zia Mary arrivasse. Susan, che conosceva il suo posto, non si era mai seduta o mai aveva ritenuto di farlo quando c'erano ospiti a Ingleside. Ma zia Mary non è un ospite, dichiarò Anna. È una di famiglia, lo sai anche tu, Susan. Alla fine Susan cedette, non senza la segreta soddisfazione che Mary Blythe non l'avrebbe guardata più come una semplice ragazza a servizio. Susan non aveva mai conosciuto zia Mary, ma una nipote, la figlia di sua sorella Matilde, aveva lavorato per zia Mary in Charlottetown e le aveva raccontato tutto quello che aveva visto. Non ho intenzione di fingere con te che io sia felice di fronte alla prospettiva di una visita di zia Mary, in particolare proprio ora, disse Anna francamente. Ma lei ha scritto a Gilbert chiedendo se poteva venire per qualche settimana e tu sai come la pensa il dottore riguardo a queste cose. Oh, ha tutto il diritto di fare così, affermò Susan fermamente. Qual è il dovere di un uomo se non stare con la sua carne e il suo sangue? Ma vale per alcune settimane. Beh, signora dottora cara, non voglio guardare il lato oscuro delle cose, ma la cognata di mia sorella Matilde è andata a farle visita per qualche settimana e ci è rimasta per 20 anni. Non credo che dobbiamo temere qualcosa di simile, Susan, sorrise Anna. Zia Mary ha una casa molto bella di sua proprietà a Charlottetown. E lei la sta trovando molto grande e solitaria in questo periodo. Sua madre è morta 2 anni fa, lo sai, aveva 85 anni. E zia Mary è stata molto buona e lei le mancava molto. Facciamo in modo che la sua visita sia il più piacevole possibile, Susan. Farò tutto ciò che mi è possibile, signora dottora cara. Naturalmente dobbiamo aggiungere un altro posto a tavola, ma in fin dei conti è meglio allungare la tavola che accorciarla. Non dobbiamo mettere i fiori sul tavolo, Susan, perché pare che le diano l'asma. Il pepe la fa starnutire, perciò meglio non usarlo. È soggetta a frequenti mal di testa, pure, per cui dobbiamo veramente cercare di non essere rumorosi. Santo cielo! Beh, non ho mai notato che il medico faccia molto rumore. E se io voglio urlare, posso anche andare al centro della macchia degli aceri? Ma se i nostri poveri bambini devono tacere tutto il tempo a causa del mal di testa di Mary Blight, beh, mi scuserà se dico che penso che stiamo cercando di andare un po' troppo lontano, cara signora dottora. È solo per poche settimane, Susan. Speriamo che sia così. Oh, beh, signora dottora cara, dobbiamo giusto accettare le strisce magre con quelle grasse in questo momento. Era la sentenza di Susan. Così zia Mary era arrivata, chiedendo immediatamente al suo arrivo se avessero pulito i camini di recente. Era chiaro che aveva un grande timore del fuoco. Ho sempre detto che i camini di questa casa non sono abbastanza alti. Spero che il mio letto sia stato ben ventilato, Anna. La biancheria da letto umida è terribile. Prese possesso della stanza degli ospiti di Ingleside e e per inciso di tutte le altre stanze della casa tranne quella di Susan. Nessuno aveva salutato il suo arrivo con una gioia sfrenata. Jem, dopo averlo osservato un attimo, scivolò in cucina e sussurrò a Susan: «Possiamo ridere mentre lei è qui, Susan?» Gli occhi di Walter erano colmi di lacrime nel vederla e fu ignominiosamente spintonato fuori dalla stanza. Le gemelle non aspettarono di essere spintonate, ma corsero via di propria iniziativa. «Perfino Gamberetto», affermò Susan. «Se ne andò in cortile ed ebbe delle convulsioni». Solo Shirley, che stava nel suo terreno e guardava senza paura con i suoi occhi tondi e marroni, dal sicuro ancoraggio che era il giro del braccio di Susan. Zia Mary pensò che i bambini di Ingleside avevano delle pessime maniere. Ma che cosa ci si poteva aspettare quando essi avevano una madre che aveva scritto per i giornali e un padre che pensava fossero la perfezione solo perché erano figli suoi e una ragazza assunta come Susan Baker che non aveva mai conosciuto il suo posto a tavola. Ma lei, Mary Blythe, avrebbe fatto del suo meglio per i nipoti del povero cugino John, fin tanto che era a Ingleside. «Il tuo benedicite è troppo breve, Gilbert», disse con disapprovazione al suo primo pasto. «Vuoi che dica io il benedicite per te mentre sono qua? Sarà un esempio migliore per la tua famiglia». Con costernazione di Susan, Gilbert accettò che zia Mary dicesse il benedicite per la cena. Era più simile a una preghiera che a un benedicite. Susan portò l'attenzione ai piatti e segretamente concordava con la descrizione fatta da sua nipote su Mary Blythe. «Sembra sempre che abbia un cattivo odore, zia Susan. Non un odore sgradevole, solo un cattivo odore». «Gladys ha un modo tutto suo di spiegare le cose», pensò Susan, anche se nessuno aveva meno pregiudizi di lei. La zia Mary Blythe non aveva un cattivo aspetto per una signora di 55 anni. Aveva quelli che lei riteneva dei lineamenti aristocratici. Il viso incorniciato da capelli grigi arricciati e sempre lucidi, e vestiva in modo piacevole. Indossava lunghi orecchini di giaietto e una fascia alla moda di tulle sul collo sottile. «Beh, almeno non dobbiamo vergognarci del suo aspetto», riflette Susan. Ma di quello che avrebbe pensato zia Mary se avesse saputo che Susan trovava conforto in quei dettagli, noi qui non vogliamo parlare.